Buonasera a tutte e a tutti. Dai microfoni di Radio Onda Rossa sulla breccia dell'onda, la trasmissione settimanale di Facciamo Breccia. Coordinamento sulle parole d'ordine, autodeterminazione, laicità, antifascismo. Tutto quello che volete sapere su Facciamo Breccia è su www.facciamobreccia.org. La serata di stasera sarà tutta dedicata al tema della manifestazione di sabato prossimo, sabato 24, qui a Roma, la manifestazione contro la violenza maschile sulle donne. Comunicato di adesione alla manifestazione del 24 novembre delle compagne di Facciamo Breccia. Un solo paese extracomunitario rappresenta nella sua totalità un pericoloso nemico per tutte le donne, il Vaticano. Con le sue battaglie patriarcali contro l'autodeterminazione e i diritti delle donne e delle lesbiche in tutto il mondo, con le sue incontenibili ingerenze nei confronti del governo italiano, sempre prono ai diktat papali, con il suo continuo ribadire l'indissolubilità e la centralità della famiglia, luogo primario della violenza contro donne e contro bambine e bambini, con le sue posizioni sempre più integraliste e filofasciste, il Vaticano sta cercando di affossare il percorso di liberazione intrapreso dalle donne e dalle lesbiche di tutti i continenti. Allo stesso tempo ridimensiona o nasconde la realtà degli stupri di donne e bambini e bambine da parte dei preti. Il governo Prodi, incapace di qualunque scelta dignitosa di sinistra, si fa esecutore delle imposizioni papali in tema di diritti di tutte e di tutti e nella difesa dei privilegi vaticani. Allo stesso tempo usa i corpi delle donne violate e massacrate dalla violenza maschile per legittimare una repressione di Stato che è l'esatta riproposizione di quella violenza, ridurci tutte al ruolo di vittime bisognose di protezione, giustificare derive securitarie e fasciste, legittimare la logica razzista delle deportazioni di massa di donne e uomini migranti. Non ci lasciamo abbindolare dall'ipocrisia criminale di chi parla di sicurezza delle donne mentre combatte guerre nelle quali le donne sono le prime vittime, stuprate, ammazzate dai bombardamenti umanitari, massacrate dagli occupanti e dagli occupati. Aderiamo al corteo il 24 novembre contro la violenza maschile sulle donne anche per testimoniare la nostra volontà di non essere complici nella degenerazione sociale e politica in cui vorrebbero trascinarci. Più autodeterminazione, meno Vaticano. Le compagne del coordinamento Facciamo Breccia. Al telefono con Valentine di Facciamo Breccia Torino, e così da ascoltare anche come a Torino è stata costruita la partecipazione alla manifestazione del 24. Ciao Valentine. Ciao, un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, qui a Torino abbiamo deciso di investire molto sulla manifestazione, proprio perché lo riteniamo un appuntamento estremamente importante. Ci siamo avvicinati con assemblee cittadine allargate, dopodiché con momenti anche più ristretti tra compagne, e in questo caso appunto tra noi compagne che ci riconosciamo nel coordinamento di Facciamo Breccia, ci siamo trovate perché avevamo alcune cose da dirci, insomma, anche rispetto proprio a come voleva essere caratterizzata la manifestazione. Ci siamo trovate a condividere pienamente l'appello, ci riconoscevamo in tutto, soprattutto apprezzavamo che ci fosse stato il passaggio sul discorso della tentata strumentalizzazione del discorso della violenza sulla donna, che poi appunto lo vediamo sta prendendo derive poco piacevoli, viene usato appunto per fare questi decreti, espulsioni in nome di questa sicurezza cittadina, ma tutti i dati lo dicono che insomma non è la violenza, per la maggior parte dei casi avviene tra le mura di casa e non ha etnie, insomma. Ecco, ci siamo trovate completamente d'accordo su questa forma, però sinceramente sulla questione di un corteo di donne per donne non ci trovavamo completamente a nostro agio. Avevamo delle perplessità che abbiamo deciso di mettere nero su bianco dopo la discussione, e abbiamo inviato questo comunicato che si potrà trovare a breve, anzi domani lo metterò anche sul sito Contro Violenza Donne, insomma, e poi per altri canali arriverà a molte compagne. Un comunicato che non vuole essere un'ulteriore polemica, semplicemente da parte nostra vuole essere un contributo alla discussione e alla riflessione, insomma. Sia perché abbiamo visto, insomma, che è stato bello da una parte il dibattito su questo tema, perché è stato un dibattito allargato, sentito, eccetera eccetera, però a volte sono esasperati i toni. Volevamo anche un po' appunto riportare un po' la tranquillità rispetto all'argomento, no? Perché è anche bello discutere sulle nostre pratiche differenti. Diciamo che la sintesi nostra è questa. C'è da dire che influisce, penso, molto la realtà che noi viviamo ogni giorno. Cioè, noi siamo di Facciamo Breccia a Torino, molti di noi fanno parte di quei misti, altri di quei universitari o centri sociali, però tutte comunque ci riconosciamo nel movimento antagonista. Il movimento antagonista, e ogni giorno ci troviamo a portare avanti le nostre lotte con le compagne e anche con i compagni. Quello che noi pensiamo che sia da fare in questo caso, cioè siamo proprio molto convinte che i movimenti di liberazione da un'oppressione, specialmente in una fase storica nella quale ci troviamo, abbiano necessità, oltre di fondare l'auto-organizzazione, di essere in grado di costruire alleanze e sinergie. Lo crediamo come militanti antagoniste, lo crediamo anche in quanto donne e in quanto femministe. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso, oltre al percorso tra donne, di far parte di una realtà mista, quale è Facciamo Breccia. Volevamo portare alcuni esempi, insomma, del nostro approccio alle discussioni. Ad esempio, quando discutiamo del matrimonio per gay e lesbiche in Facciamo Breccia a Torino, comunque noi portiamo la nostra elaborazione di femministe sulla critica alla famiglia, compresi i dati sulla violenza in famiglia. Digo yo que reinas somos todas, que debemos imponer nuestras modas, por eso hago llamado a otros. Leggiamo adesso il comunicato di adesione dei compagni di Facciamo Breccia. In questo particolare momento in cui da ogni città parte una richiesta di sicurezza contro stranieri, rom, migranti, accattoni, precari, senza casa, prostitute e prostituti, gay, lesbiche, trans, assistiamo ad una istituzionalizzazione di pratiche razziste e xenofobe da una parte e dall'altra, ad un incremento di violenze ai danni delle donne da parte di maschi amici della stessa famiglia e nazionalità. La manifestazione delle donne per le donne di sabato 24 tocca concretamente l'ambiguità e la pericolosità di tutte queste politiche securitarie, che hanno come denominatore comune l'eliminazione di ciò che si vede concretamente come diverso. La cultura che colpisce ciò che è palesemente estraneo alla famiglia è una cultura omertosa, una cultura che ha bisogno dell'appartenenza per mascherare l'evidenza. Da millenni a pagare di questa omertosa cultura del non visto e del non detto sono state le donne, vittime di uomini perennemente in guerra contro chiunque volesse mettere in discussione il loro potere e capaci per questo di pestare, violentare ed uccidere. L'omertà di maschi tra maschi che si tramandano la loro identità fondata sul disconoscimento per diritto naturale di ogni diversità, di padre in figlio, di caserma in parrocchia, di famiglia in fabbrica, di paese in città, di Vaticano in Parlamento, rappresenta ancora oggi la monocultura familista, religiosa e di genere imperante. Di fronte a ciò, una manifestazione fatta da donne contro le violenze subite quotidianamente da parte di uomini di ogni nazionalità, sconosciuti ma anche e soprattutto mariti, amici, parroci, maschi ben intruppati nella cultura omertosa maschilista, ci sembra il minimo, anzi indispensabile. Una manifestazione di donne fatta da donne è una boccata di ossigeno e di vigore, una scelta precisa ed attuale per far fronte alla cultura e alla politica di oggi fatta di vuoti di memoria e di svendita delle conquiste sociali fatte dai movimenti, in primis quello delle donne. Usare la morte di una donna brutalmente seviziata e massacrata per condannare un popolo, quello Rom, è un'operazione razzista meschina e pericolosa che tra l'altro lascia impuniti tutti i maschi italiani, protetti dall'omertoso patto in famiglia, tra le nostre mura, sulle e contro le nostre donne si può. Anzi, noi possiamo. È per questo che qualche giorno fa, per vendicare lo stupro fatto dallo straniero, un gruppo di maschi ha massacrato una donna Rom. Condividiamo la piattaforma della manifestazione e dei suoi contenuti, che sono i nostri per analisi e percorsi. Siamo consapevoli che per dare forza alla manifestazione, che in questo momento deve essere di forte denuncia, senza mediazione alcuna contro le violenze degli uomini amici, compagni, mariti, fratelli, parroci, la piazza deve essere delle donne, i compagni del coordinamento Facciamo Breccia. E adesso ad introdurre l'intervento di Fuoricampo Lesbian Group, un gruppo lesbico cubano, Las Crudas, con Reina. Allora siamo al telefono con Luchi di Fuoricampo Lesbian Group di Bologna, che già da tempo si è occupata in specifico, diciamo, della violenza sulle lesbiche, e questa manifestazione, nel suo appello, dice appunto: denunciamo una specifica violenza contro le lesbiche volta a imporre un modello unico eterosessuale. Che significa questo, Luchi? Ciao Elena, ciao a tutte. Allora, cosa significa questo? Intanto io sono contenta che questa frase è stata messa nell'appello e nel documento, perché come dire, non è sempre così scontato che purtroppo, diciamo così, la politica lesbica rientra negli appelli femministi. Comunque, che cosa significa? Noi, diciamo, come questa frase che è stata voluta fortemente, abbiamo aggiunto, come dicevi tu, il fatto di entrare nella norma eterosessuale, abbiamo aggiunto appunto che riconoscere nella famiglia tradizionale l'unico modello possibile. E questo vuol dire che la violenza verso le lesbiche ha avuto negli ultimi anni un aumento notevole, c'è sempre stata, però negli ultimi anni ha avuto un aumento notevole. Noi abbiamo fatto una ricerca appunto così per vedere un po' la lesbofobia nel mondo, ed è veramente vastissima. In tanti paesi le lesbiche vengono ancora torturate, uccise, e soprattutto avviene una cosa gravissima, che appunto è lo stupro praticato come correzione, cioè e questo in molti paesi purtroppo anche dell'Africa. Cioè le lesbiche vengono violentate, messe incinte per farle rientrare nella normalità eterosessuale. Questo per quanto riguarda la violenza e lo stupro purtroppo non avviene solo all'estero, avviene anche in Italia, ricordo solo due casi, uno a Lucca un po' di anni fa e più recentemente, come sapete, a Torre del Lago, che è una località diciamo della Versilia Friendly, dove una donna è stata stuprata proprio in quanto lesbica. E quindi la violenza misogena in questo caso è stato fortemente punitivo, cioè punita la lesbica in quanto tale, perché la lesbica quando è visibile cosa fa? Praticamente è il soggetto che proprio si estrae, no? Da tutto ciò che è patriarcale, da tutto ciò che è impositivo della norma eterosessuale. Questa violenza che cosa è dovuta, questo aumento di violenza è dovuto a tantissimi fattori secondo me, tra cui io vedo questo, intanto lo sdoganamento del fascismo che c'è stato da parte del governo di destra Berlusconi, che ha legittimato la violenza camerata, e ovviamente come sappiamo anche i continui attacchi del Papa e del Vertice Vaticano, che continuando a dire appunto che contro natura, amori deboli eccetera, fa sì che questi comandi punitivi poi siano abbiano direttamente la protezione del Dio giusto che protegge appunto padre, onore, famiglia, no? Eccetera. Che questa violenza, che nei casi come quelli di Lucca o di Torre del Lago ha avuto anche una matrice politica e comunque è stata agita in luoghi pubblici, all'interno della famiglia credo purtroppo che la violenza sulle lesbiche sia un fatto quotidiano. Sì, è abbastanza terribile la situazione, nel senso che purtroppo non si conosce tanto, nel senso che spesso si parla di omofobia, anche perché l'omofobia viene proprio citata nelle leggi di tanti paesi del mondo, ma tantissimi, ci sono ancora una settantina di paesi del mondo che danno il carcere, 8 paesi che danno la pena di morte, ed è specificata appunto l'omofobia. La lesbica viene, intanto vabbè, viene punita quando è visibile, no? Quindi quando è attivista, ci sono state purtroppo degli attivisti anche in Africa che sono state uccise negli Stati Uniti, quindi quando è visibile e quando viene fuori, perché il lesbismo ovviamente cos'è? È molto rivoluzionario quando è visibile, no? Ma purtroppo subiscono anche dei soprusi in casa ed è per questo che penso che bisognerebbe veramente fare, chiamiamola campagna, chiamiamola come vogliamo, però sicuramente una campagna culturale sulla visibilità, cioè sul venir fuori, perché appunto dichiarandosi come si è, avendo una forte amor di sé, credendo veramente nell'alleanza tra donne, tra le lesbiche, e credendo fortemente nell'autodifesa, secondo me si riesce almeno in parte a risolvere questo. Digo yo que reinas somos todas, que debemos imponer nuestras modas, por eso hago llamado a otros reinados. A ver si logramos entre reinas mejores acabados. Autodeclarémonos altas excelencias, ebo y coronación ante esta concurrencia. Reinas Quilay, de Cuba. Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada, nada, buscando más. Cultura y resistencia hay en Omegas Quilay. Vengo reclamando el territorio que me corresponde como reina absoluta en esta causa. Tengo la misión de dirigir mis tropas oscuras, corregir la falta para eliminar ataduras. Desde Cuba, la mayor de las Antillas, donde nacen y crecen semillas criollas como firmes cañones de guerrilla. Yo soy única reina y mi corona es cambiar idea a cualquier precio, y si es preciso con plomo, porque mi principal virtud es que soy Dios en la más poderosa prosa, reina de la poesía y de la rosa más venenosa, de las calles subterráneas y pueblos oprimidos. Reina de mí misma y de mi cabeza yo, reina de mi ombligo y de mi sutileza yo, de mis pasos, de cómo vivo, sin corona sigo por el mundo de las mamas, nada me asusta, luchamos por el mañana, Cuba me alumbra, la tierra me llama, esta es mi vibración, hacemos revolución, reina yo, reina con mucho amor. Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada nada buscando más, cultura y resistencia hay. Reina de la basura, bufona de mi cultura, de mi arte, de mi madre, de mi espíritu, de mi nombre, de las mujeres sin hombres, reina guantanamera del exilio tejana en La Habana, californiana, reina de mi reina cubense, reina vegetariana de arrebatos, de sombrillas, de naturales poderes y de cosas muy sencillas, de la diversidad, reinas, excelencias del berro y la tolerancia, dígase monarca y cruda, y será redundancia, redundancia. Sin mediocrancia, bajo la vagancia, reinas de la abundancia, hijas de la isla Cuba, dejando constancia, con la moche en mano ganamos, pasa cruda de a plano, hip hop cubano, desde el imperio fracturando cuellos sin misterio, echando pa'lante migrante. Somos las reinas que siembran amor y paz, y en la nada, nada, buscando más, cultura y resistencia hay, en Omegas Quirales. Resistencia hay en Omega Skilai. Es DJ Lady, es Omega Skilai. Somos cinco reinas diciendo lo que hay. Es Cuba, es la verdad, es la expresión de la contrariedad. Somos las reinas de la contradicción, tratando de salvar la población de tanta contaminación. Say Lady, Lady. Domenica scorsa è uscito allegato a Liberazione uno speciale queer sulla manifestazione di sabato prossimo, all'interno del quale troviamo un intervento di Beatrice Busi, La famiglia è uno stato di eccezione da abolire, che ha che riporta alcune riflessioni a nostro avviso molto interessanti che vogliamo ripercorrere da qui, dai microfoni di questa trasmissione. Secondo l'indagine che l'Istat ha svolto nel 2006 sulla violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, i partner, attuali ed ex, sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate, di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro, nonché i rapporti sessuali non desiderati ma subiti per paura delle conseguenze. Dunque, quello che i criminologi inglesi Rebecca e Russell Dobash scrivevano nell'80 ha ancora un valore attualissimo. E scrivevano: è ancora vero che una donna, per essere aggredita brutalmente o sistematicamente, deve entrare nella nostra istituzione più sacra, la famiglia. Tanto più se, come sostiene Daniela Danna in Genocidio, la violenza contro le donne nell'era globale, che è un testo che vi consigliamo, è uscito nel 2007 per Eleutera, la violenza contro le donne è legittimata e perfino mascherata anche da quei sentimenti positivi che nel panorama culturale italiano, descritto a ragione come familista, sono evocati dall'idea di famiglia. Seguendo un classico topos mediatico, tra sgomento ipocrita e tragica inconsapevolezza, spesso ci si chiede come a certi uomini sia possibile condurre una vita normale, spesso irreprensibile, fuori casa e in privato, essere dei cosiddetti mostri. Una domanda che però contiene già in sé il germe della verità. Della verità che viene esplicitato dalla sociologa femminista francese Delphi, che individua la chiave di volta per analizzare la violenza esercitata in famiglia contro donne e minori proprio nella dicotomia sociale-privato, una dicotomia particolare. Ovvero è come se si trattasse di due società delle quali l'una è il dentro, l'altra è il fuori. Ma il dentro, la sfera privata, è stata costruita esattamente come stato d'eccezione. Nel privato, le regole del cosiddetto diritto comune sono sospese o più esattamente rimpiazzate da altre che dichiarano legittimo l'uso della forza. E ancora, quello che spiega le violenze coniugali è la coniugalità, è il fatto che la società abbia creato un'altra categoria sociale, il privato. Ce lo dimostra la stessa formulazione contenuta nell'articolo 29 della nostra Costituzione. La famiglia è una società naturale. Di nuovo Delphi ci viene in aiuto, suggerendoci cosa implica l'evocazione della natura, la sospensione del diritto comune, in una sfera dell'interazione sociale, sfera che viene chiamata il privato. Ed è proprio la configurazione del privato come sfera di non diritto che legittima anche la rapina del lavoro di cura e di riproduzione svolta ancora oggi in stragrande maggioranza dalle donne, migranti e non solo in larghissima parte o gratuitamente o in nero, ma anche senza alcuna forma di riconoscimento sociale. E quindi appunto la spiegazione di tutti i dati che l'Istat ci ha dato in quella terribile report che è diventato famigerato in quest'ultimo periodo sta proprio in questo, perché è troppo diffusa l'idea che la violenza in famiglia sia un affare privato. Del resto, ci ricorda Danna, l'autrice di Genocidio, nei paesi occidentali il cambiamento legislativo è stato recente, la non applicazione al coniuge del reato di stupro è rimasta in vigore fino all'81 in Italia, al 91 in Olanda, al 94 in Inghilterra, al 1997 in Germania ed è tuttora valida in molte parti degli Stati Uniti. A questo riguardo assume un valore ancora più scardinante l'idea femminista che invece il personale è politico. Non a caso la nota femminista salvadoregna Mercedes Cañas ha paragonato la violenza domestica alla tortura politica, sottolineando come alcuni mariti e compagni colpiscano le loro donne in modo da non lasciare segni visibili, esattamente come i torturatori più esperti. Siamo qui con Anna Grazia dei Cobas, le volevamo chiedere qual è il legame fra le lotte sociali e una manifestazione contro la violenza sulle donne? Come mai le donne dei Cobas hanno deciso di sfilare? Beh, intanto saluto tutte e tutti, vi ringrazio per questa intervista. Beh, il legame, direi che il legame è per tutti quelli che lottano contro il capitalismo e il liberismo e la mercificazione totale, non può che lottare anche contro la totale mercificazione che si ha oggi sul corpo e contro il corpo delle donne, per cui la saldatura è sicuramente quella di una lotta politica contro l'orizzonte della mercificazione completa per la liberazione delle donne. In questo senso mi sembra fondamentale che anche le donne dei Cobas possano sfilare insieme a tutte quante le altre donne dei movimenti femministi, femminili, che forse oggi, dopo gli eventi traumatici degli ultimi mesi e degli ultimi giorni, riprendono la parola per scendere in piazza, fermo restando che la violenza sulle donne non è qualcosa che si consuma soltanto per la strada, ma è qualcosa che si consuma invece anche drammaticamente tra le pareti domestiche della nostra vita e che forse dopo tanti anni è il caso che si ritorni a parlare, a lottare insieme tra donne, anche solo tra donne, di questioni così importanti e drammatiche per noi. E guerra permanente, guerra di religione, guerra sui corpi delle donne, criminalizzazione, deriva securitaria, criminalizzazione dei degli immigrati e quindi dei romeni in questo caso. Sembra che un gruppo di donne rom sfilerà in questa manifestazione. Probabilmente è proprio quello di cui stiamo parlando. Che effetto ti fa pensare che queste lotte, appunto tutto l'arco della lotta contro la guerra, l'immigrazione e le lotte femministe possono appunto camminare insieme? Te l'aspettavi? Ma forse non me l'aspettavo come percorso, perché direi che in quest'ambito manca da qualche tempo una riflessione che possa fungere anche da collante tra tutte queste forme di lotta che ci sono. È vero anche che proprio nei momenti più difficili qualche volta si trova l'ampio respiro, il giusto respiro per poter collegare il tutto e saldarlo insieme. Naturalmente non

sulle donne, non ha niente a che fare con le politiche di tipo securitario, e questo è qualcosa che dobbiamo rivendicare assolutamente. E forse, come dicevo prima, è arrivato il momento di una discussione più ampia. Devo dire che questa discussione, almeno per quello che in queste prime settimane siamo andate analizzando, viene proprio forte dalle giovani donne, che più di noi in questo momento sentono un'esigenza che in qualche modo per noi era stata maturata nei decenni precedenti attraverso le lotte femministe, le pratiche femministe che abbiamo avuto, mentre le donne giovani sentono forse la mancanza di un percorso comune e hanno rivendicato con forza il bisogno di riallacciarsi a tutte queste lotte e di essere loro in prima persona a portare in piazza queste esigenze. Beh, ti ringraziamo, allora ci vediamo sabato in piazza. Grazie e arrivederci. Queste erano Annie Lennox e Aretha Franklin. Qui siamo ancora da microfoni di Radio Onda Rossa sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione di Facciamo Breccia, settimana tutta dedicata alla manifestazione di sabato prossimo contro la violenza maschile sulle donne. E adesso ancora uno stralcio dal speciale Queer su questa manifestazione, un articolo di Barbara Spinelli che ci parla di femminicidio. Femminicidio, un neologismo salito alla ribalta da poco in Italia, spesso virgolettato dai giornali, spesso contestato da alcune donne che lo considerano un'espressione troppo vittimistica e pomposa, ma, sosteneva Betty Friedman, dare un nome a un problema è essenziale sia per far sorgere consapevolezza della sua esistenza, sia per agire. Già si era notato anni fa che ci si ostina a voler negare il dominio maschile, esempio per eccellenza di sottosmissione paradossale, accettato nei secoli come naturale. Una violenza sottile, invisibile per le stesse vittime, che fa percepire come naturale, casuale, occasionale, dunque o frutto della follia individuale o di un contesto sociale marginale, un continuum di terrore, botte, vessazioni, discriminazioni, che è invece storicamente e culturalmente costruito. Femminicidio non è il femminile di omicidio, perché non tutte le uccisioni di donne possono definirsi femminicidi, e i femminicidi non sono soltanto le uccisioni di donne. Femminicidio indica una realtà di violenza misogina e sessista degli uomini e delle istituzioni maschili sulle donne, una storia vecchia quanto al patriarcato. Femminicidio è stata la caccia alle streghe, è la persecuzione delle lesbiche, sono le mutilazioni genitali femminili, è l'aborto selettivo in Cina, sono le vedove bruciate insieme al marito morto in India, le donne indiane acidificate dalla famiglia del marito per la dote poco consistente. Femminicidio è in alcune contee degli Stati Uniti e in tanti altri paesi dell'Occidente globalizzato la legalizzazione dello stupro del coniuge, non punibile. È la morte delle donne costrette all'aborto clandestino, dalla legge o dalla dilagante obiezione di coscienza. femminicidio sono le donne che muoiono di AIDS perché il partner non le informa di essere seropositivo. Le ragazze anoressiche o morte sotto i ferri del chirurgo per corrispondere a un modello di bellezza costruito, commerciale. È la sterilizzazione forzata. Femminicidio è la violenza domestica che silenziosamente uccide e fa suicidare milioni di donne nel mondo. È la morte vivente di quelle donne che subiscono abusi in famiglia e non riescono più a riprendere una vita normale. Femminicidio, in sostanza, è ogni forma di violenza e discriminazione esercitata contro la donna in quanto donna, come forma di esercizio di potere sulla sua psiche o sul suo corpo, volto ad annientarla perché non è quello che l'uomo o la società vorrebbero che fosse, perché esercita la sua libera determinazione rompendo gli schemi, ribellandosi al ruolo di moglie, madre, figlia, amante, suora, puttana, che le è stato attribuito dagli uomini in una società patriarcale. E con queste parole fermiamo qui il discorso sul femminicidio, sulla violenza contro le donne, e apriamo a un paio altro di news che ci sembrano rilevanti per questa settimana. La prima è che sono uscite le motivazioni della Corte d'Assise di Rebibbia sul caso Calvi. Pur essendo, diciamo, trattasi di un processo, vogliamo citarlo perché non c'è stata nessuna pubblicità, nessuna rilevanza a questo fatto. Secondo le motivazioni della sentenza, che ha praticamente scagionato tutti gli imputati, Calvi è stato ucciso per mafia. E nella sentenza si sottolinea quali potrebbero essere state appunto le cause per cui si è arrivata alla sua uccisione. Ne leggo solo una, che dice: così anche se i servizi segreti italiani potrebbero aver perseguito lo scopo di evitare la destabilizzazione che sarebbe derivata da uno scandalo avente per oggetto il sistema politico italiano e la Chiesa Cattolica. Un'altra notizia che ci è sembrata interessante e anche un po', diciamo, divertente è che, divertente è una tragedia ovviamente, dovranno pagare 50 milioni di dollari di danni i gesuiti per l'abuso di 110 persone in Alaska, quindi quasi mezzo milione di dollari per abusato, abusi compiuti fra il 61 e l'87 in 15 minuscoli villaggi dove appunto vivono i popoli Yupik. E, per fare un esempio, ci sarebbe un'isoletta lunga 15 chilometri abitata da 150 famiglie in cui, secondo l'avvocato, è difficile trovare anche un solo maschio che non sia stato abusato. Se volete avere maggiori notizie sulla manifestazione, ci saranno diversi spazi informativi su di essa, uno domani alle 10, un altro domani, l'altro venerdì alle 11, poi a mezzogiorno di sabato e dalle 13:30 la diretta del corteo a cura delle compagne. E quindi con questi inviti a ascoltare ancora le frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre alle 20.15 su queste frequenze per sulla breccia dell'onda, la trasmissione settimanale di Facciamo Breccia. Vi invitiamo ancora a visitare il nostro sito www.facciamobreccia.org e soprattutto invitiamo tutte le donne all'ascolto e tutte le loro amiche, tutte le loro compagne e tutte le donne del mondo e tutte le loro amanti e tutte le donne del mondo a unirsi a noi in corteo sabato prossimo alle 14 a Roma in Piazza della Repubblica. A presto. La cumbia llena mi vida. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madruga. Escucho un susurro que a diario me llama. Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse. Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar. Vamos a bailar.